Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Credo di essere andato a letto alle 6 di mattina, perché mi sono letto tutti i grandi dittatori. Da Hitler, naturalmente, ci ha messo anche Mussolini, che proprio un dittatore non era, forse, no? Beh, insomma, nel suo piccolo, diciamo che era meno violento degli altri, però insomma non amava molto essere contraddetto. No, mi devi scusare, ma io cerco sempre di dare degli appigli ai giornali per attaccarmi, no? Certo. Quindi nel clima che c'è adesso mi saranno tutti contro. Avete sentito che Silvio Berlusconi è tornato a parlare, naturalmente senza molti freni, come nel suo stile. Oggi era la presentazione rituale ogni anno del nuovo libro di Bruno Vespa, ha fatto diverse dichiarazioni, ce ne occuperemo, perché poi per la politica ci sono altri fatti. Oggi si parla di biotestamento, domani c'è il voto finale sul provvedimento di legge che ha visto una maggioranza trasversale che ha retto ai vari voti segreti che ci sono stati oggi. E poi c'è il vertice straordinario di Istanbul con i paesi arabi che si sono riuniti per discutere dopo questa decisione di Trump su Gerusalemme, così fortemente contestata a livello internazionale. Quindi, come sempre, molti fatti, molte notizie che vi devo raccontare, che poi spiegheremo insieme meglio con gli ospiti. E intanto vi ricordo sempre che, prima di riassumervi la giornata, ci sono due canali privilegiati per voi per intervenire con Effetto Notte, con le vostre riflessioni, con le vostre opinioni, che è la pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì per voi giorno e notte, e poi il numero a cui inviare SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666. Allora, prima di tutto, come sempre, sentiamo che giornata è stata. Ryanair, la compagnia low cost, minaccia i piloti, ci saranno sanzioni se aderite allo sciopero, dice, un atto indegno, secondo il ministro Calenda, e per il garante, che sarà Effetto Notte, è contro la Costituzione. Economia italiana, migliorano le previsioni di Confindustria, ma il voto rappresenta un bivio. Il vertice straordinario di Istanbul, i paesi musulmani chiedono che Gerusalemme Est sia capitale della Palestina. Il disegno di legge sul biotestamento, il Senato dice sì alle DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, domani il voto finale. Berlusconi sulle elezioni, che ci saranno probabilmente il 4 marzo, se nessuno vince avanti con Gentiloni, e sullo strappo con Salvini dice solo capricci. Ciclismo, Froome positivo all'antidoping. Partiamo quindi dalla vicenda Ryanair. La compagnia low cost ha scritto una lettera ai piloti italiani minacciando ritorsioni in caso di sciopero programmato per venerdì. Non si è fatta attendere la reazione di governo e istituzioni. È una lettera durissima, quella di Ryanair ai piloti, con la quale si minacciano, in caso di partecipazione allo sciopero di dopodomani, sanzioni sui turni per l'intero equipaggio e annullamento di gratifiche economiche e promozioni. Una lettera che fin dalla pubblicazione ha suscitato la reazione dura di governo e istituzioni. Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda parla di atto indegno, il presidente della commissione di garanzia sugli scioperi Giuseppe Santoro Passarelli di parole fuori dalla Costituzione. Giampiero Falasca, giuslavorista dello studio DLA Piper. È un'azione chiaramente illecita, almeno secondo le norme della Costituzione e il diritto del lavoro italiano. Primo, perché si vieta di esercitare il diritto di sciopero, e poi perché c'è addirittura la minaccia di azioni ritorsive. Ora i sindacati stanno riflettendo su quali possano essere le prossime azioni, senza escludere quelle legali. Riccardo Canestrari è coordinatore piloti di ANPAC. Stiamo facendo tutti gli approfondimenti che servono, assolutamente sì. Che sul nostro territorio succeda una cosa di questo genere è assolutamente pazzesco. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi nel corso di questa puntata di Effetto Notte sentiremo il parere del Presidente dell'Autorità Garante per gli scioperi. Passiamo all'economia italiana con le stime del Centro Studi di Confindustria, che conferma la crescita del PIL, del prodotto interno lordo italiano, all'1,5% nel 2017 e lo ritocca a rialzo per il 2018. La ripresa si rafforza, l'Italia è agganciata al treno della crescita mondiale e non si intravedono rischi di deragliamento. Confindustria conferma i segnali positivi per la nostra economia, con la stima del PIL per il 2018 rivista all'insù dall'1,3 precedentemente atteso all'1,5, anche se resta sempre ampio il divario dal picco pre-crisi. Per colmarlo bisognerà aspettare il 2021. A trainare la ripresa l'export e gli investimenti, bene anche l'occupazione che, dice Confindustria, non è più la cenerentola della ripresa. Per gli industriali però bisogna stare attenti e non disperdere questi risultati. Le prossime elezioni rappresentano un bivio: o proseguire nel cammino delle riforme o non fare nulla e tornare indietro, e ciò metterebbe a repentaglio la ripresa. Il presidente degli industriali Boccia: non smontiamo le riforme che hanno effetti sull'economia reale e andiamo avanti, evitiamo eccesso di tattiche. Confindustria lancia anche un piano per l'Africa per rendere l'Italia ponte di collegamento tra l'Europa e questo continente. Formazione, istruzione, cooperazione allo sviluppo, commercio e investimenti. L'Africa è un continente strategico, dice Boccia, per l'Italia e per l'Europa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E siamo alla politica. L'Aula del Senato ha concluso l'esame dei 3.005 emendamenti presentati al disegno di legge sul biotestamento e supera la prova del voto segreto, circa una quindicina di voti segreti, indenne. Molte proposte di modifica sono state cangurate, come si dice, cioè ridotte di numero, ma tutte sono state poi respinte. E domani mattina ci sarà il voto finale, appunto, sul biotestamento. Questo nel giorno in cui a Milano si è svolta una nuova udienza del processo a Marco Cappato, accusato di aver aiutato Fabiano Antoniani a morire in una clinica svizzera. Poi è stato presentato un video che riprendeva Antoniani che parlava delle sue ultime volontà, che ha commosso anche i giudici. E passiamo alle elezioni prossime venture. La data del voto è quasi fissata, ma alle coalizioni tutt'altro. Ed è strappo nel centrodestra. Matteo Salvini sospende l'alleanza con Silvio Berlusconi, colpa del no di Forza Italia all'iter veloce per la legge Molteni, che cancella lo sconto di pena per reati gravissimi. È una vergogna, dice il leader della Lega, che denuncia l'asse tra Forza Italia e la sinistra di Grasso. Alla presentazione del libro di Bruno Vespa, Silvio Berlusconi minimizza e ammonisce: i capricci di Salvini sono sopravvalutati. Voglio incontrarmi con Salvini e parlare con lui. Io di questi due punti non ho mai ragionato con i miei, sono state decisioni assunte all'interno del nostro gruppo parlamentare. Ma l'ex cavaliere teme che le elezioni portino ad un nulla di fatto, e qui arriva l'endorsement a sorpresa Paolo Gentiloni. Senza vincitori, spiega Berlusconi, la soluzione più corretta sarebbe quella di continuare con questo governo e consentire un'altra campagna elettorale di almeno 3 mesi che possa permettere ai partiti di far conoscere agli elettori i loro programmi. E su Mussolini dice: non era un dittatore. Poi spiega: mi sono letto tutti i grandi dittatori, ci ha messo anche Mussolini, che proprio un dittatore non era, forse, no? Era una battuta di spirito. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi c'è un'altra polemica che è interna alla politica, quella che ha trovato un nuovo vigore dopo l'incidente di ieri al gasdotto in Austria, sul TAP a Melendugno, questo gasdotto che dovrebbe attraversare la Puglia. Duro botta e risposta tra il ministro Calenda e il governatore Emiliano. Se anche in Austria hanno trattato quell'impianto con la stessa superficialità con la quale stanno progettando l'impianto del TAP, noi stiamo rischiando di avere un incidente simile. Questo avrebbe dovuto dire un ministro. Ancora accuse, ancora una volta, sino ad arrivare a paragonare ad Auschwitz il gasdotto in costruzione, per poi scusarsi per il paragone inopportuno. Polemica dunque tutt'altro che sopita dopo l'incidente in Austria. E se il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ironizza su Twitter: mi accuserà, scrive, di scie chimiche e di difendere lo stato imperialista delle multinazionali, Emiliano non intende fare marcia indietro, nonostante le pronunce della magistratura non abbiano trovato riscontro ai suoi allarmi sulla salute dei cittadini. Con sentenza definitiva, sia la magistratura amministrativa che quella ordinaria hanno confermato che la direttiva Seveso non deve applicarsi al TAP, ha sottolineato in una nota la multinazionale che sta realizzando il metanodotto. Emiliano però non ha escluso la presentazione di un nuovo ricorso. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi le banche. Oggi audizione di Luigi Zonin in commissione d'inchiesta parlamentare sulle banche. Purtroppo, dice, ho perso anch'io dei soldi, così ha dichiarato l'ex presidente della Popolare di Vicenza entrando a San Macuto per l'audizione. Zonin ha negato qualsiasi pressione da parte delle istituzioni su una possibile fusione con Veneto Banca, e poi probabilmente verranno fuori domani altre cose più dettagliate. L'inchiesta su Expo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala all'ex amministratore delegato di Expo, già a processo per l'accusa di falso, è indagato anche per concorso in abuso d'ufficio per la vicenda riguardante l'appalto per la piastra dei servizi di Expo. Spostiamoci all'estero, tensione in Medio Oriente anche oggi, quando un gruppo di 40 coloni sono entrati in un villaggio palestinese in Cisgiordania, hanno tirato sassi alle case prima di essere fermati dai soldati. E poi, legato a questo, c'è il vertice straordinario di Istanbul. L'Organizzazione della Cooperazione Islamica riconosce Gerusalemme Est capitale dello Stato della Palestina occupato, invitando tutti i paesi del mondo a fare lo stesso. Questa presa di posizione è inserita nella dichiarazione finale del vertice straordinario di Istanbul, che era stata sollecitata dal presidente turco Erdogan, e definisce Israele Stato terrorista, mentre Abu Mazen, leader palestinese, annuncia che i palestinesi non accetteranno più la mediazione americana nel processo di pace. Anche il vertice europeo, che si terrà domani, si dissocerà dalla decisione di Trump di decidere che appunto Gerusalemme è capitale di Israele, e il custode del Santo Sepolcro fa sapere che non vedrà il vicepresidente americano Pence. Poi più tardi ci collegheremo con Istanbul. Ora di nuovo in Italia con la cronaca. Due anziane donne sono state uccise nella loro abitazione di Ramacca, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione sarebbero state picchiate e accoltellate durante un tentativo di rapina. E ci sono delle novità ancora sull'omicidio di Serena Mollicone. È un carabiniere accusato di favoreggiamento il nuovo indagato, il terzo militare coinvolto nell'inchiesta per la morte della 18enne di Arce, paese in provincia di Frosinone, uscita di casa il 1 giugno del 2001 e ritrovata 36 ore dopo in un bosco ad Anitrella, con una busta di plastica in testa, mani e piedi legati dal nastro adesivo. A 16 anni di distanza dall'omicidio, oggi è stata dunque iscritta nel registro degli indagati una quinta persona. Questo carabiniere, il militare attualmente in servizio in un'altra provincia laziale, ed era già stato oggetto di accertamenti agli inizi dell'inchiesta. Gli altri quattro indagati per omicidio volontario in concorso e occultamento di cadavere sono l'allora comandante della stazione dei carabinieri di Arce, Franco Mottola, la moglie Anna, il figlio Marco e un altro carabinieri. In 16 anni sono state fatte molte ipotesi e la svolta definitiva è arrivata alcune settimane fa, quando una perizia ha portato nuovamente gli inquirenti ad accendere i riflettori sulla caserma dei carabinieri del paese in provincia di Frosinone. Per chiudere lo sport, oggi il mondo dello sport è scosso dal caso Froome. Ancora una volta si parla di doping nel ciclismo. Chris Froome, quattro volte trionfatore al Tour de France e recente vincitore alla Vuelta in Spagna, è stato trovato positivo al salbutamolo, un broncodilatatore, durante un controllo antidoping effettuato proprio nella corsa tappe spagnola, il 7 settembre scorso, al termine della 18ª tappa. Lo ha reso noto la Federazione Ciclistica Internazionale, aggiungendo che le controanalisi sono già state effettuate e hanno confermato la positività del primo campione. La concentrazione di salbutamolo, la stessa sostanza per la quale furono squalificati per un anno e per 9 mesi sia Alessandro Petacchi che Diego Ulissi, è superiore alla soglia minima consentita di 1000 nanogrammi millilitro. Se a Froome dovesse toccare la stessa sorte, Vincenzo Nibali potrebbe vincere a tavolino la sua seconda vuelta della carriera, dato che fu proprio il siciliano a contendere al britannico la maglia rossa fino all'ultimo giorno, salendo sul secondo gradino del podio di Madrid. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Sole 24 Ore, Milano. E con questo direi che il riassunto della giornata, almeno le notizie principali, è compiuto. Quindi tra poco, dopo gli aggiornamenti per chi sta viaggiando, cominciamo ad affrontare alcuni argomenti, a cominciare dalla politica. Poi parleremo anche, come vi dicevo, con il garante, il presidente dell'autorità garante per gli scioperi, per capire cosa ne pensa. Mi pare che il governo e le istituzioni, insomma, siano stati tutti contro Ryanair e questa lettera scritta ai piloti minacciandoli di sanzioni in caso di sciopero. Ci sentiamo tra poco, voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ho riassunto, avete sentito poco fa, io vi ricordo però ogni tanto i fatti principali, perché qualcuno mi chiede come mai ogni tanto c'è qualcuno che non è subito presente all'appello alle 21, poi siamo insieme fino alle 22, quindi ogni tanto a chi dovesse mettersi così in ritardo, in ascolto, ricordo le notizie in primo piano. Vi ricordo anche che per i vostri messaggi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero 349-238-6666 che per messaggi e WhatsApp. Silvia scrive: ma perché ogni anno Bruno Vespa scrive un libro? Ogni volta poi dobbiamo assistere ai suoi siparietti con Berlusconi, che noia mortale. Vabbè, è sua tradizione scrivere questo libro, pubblicato da Mondadori, quindi poi presentato insieme a Berlusconi. È un rituale annuale, così. Ognuno, insomma, fa l'attività che crede, poi avrà il seguito che si merita o meno. Intanto, tra poco vi ricordo appunto le notizie e ci butteremo proprio sulla politica, parlando anche delle varie dichiarazioni che ha fatto Berlusconi, come per esempio questa apertura a Gentiloni, dice: nel caso non si dovesse raggiungere una maggioranza col voto delle elezioni politiche, potrebbe restare ancora Gentiloni per 3 mesi, dare tempo ancora un po' alla campagna elettorale e probabilmente quindi ritornare al voto. C'è il Movimento 5 Stelle di Maio che parla di inciucio, evidentemente di accordo col PD per sostenere Gentiloni. Voi cosa ne pensate? Per esempio, lo chiederò tra poco anche alla nostra ospite, però prima i titoli principali. Ryanair, la compagnia low cost, minaccia i piloti, ci saranno sanzioni se aderite allo sciopero, un atto indegno secondo il ministro Calenda, e per il garante, che sarà effetto notte più tardi, è contro questo atteggiamento di Ryanair, contro la Costituzione. Economia italiana, migliorano le previsioni di Confindustria, ma il voto, dice Confindustria, rappresenta un bivio. Il vertice straordinario di Istanbul, i paesi musulmani chiedono che Gerusalemme Est sia capitale della Palestina, continua quindi la tensione su questo argomento. Il disegno di legge sul biotestamento, domani ci sarà il voto finale, poi Berlusconi sulle elezioni, ne parleremo tra pochissimo. Ciclismo, Froome positivo all'antidoping. Quindi subito con la politica italiana, che per la giornata di oggi si sintetizza essenzialmente in 3 punti principali, 3 temi principali, che sono l'esame al Senato del provvedimento relativo al biotestamento e poi le indiscrezioni di stampa su quella che sarà la data delle elezioni politiche a primavera, cioè il 4 marzo, sembra che sia la più attendibile, poi le dichiarazioni di Berlusconi al rituale presentazione annuale del nuovo libro di Bruno Vespa. E qui saluto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara, buonasera. Quindi tu, che sei addentro i più reconditi luoghi del palazzo, confermi il 4 marzo come data? Sì. Allora è così, se dice Barbara Fiammeri, è così. Diciamo, l'ufficialità ancora non c'è, ma confermo, perché c'è una disponibilità da parte di tutte le forze politiche e quindi confermo che sarà il 4 marzo e che probabilmente ci sarà anche l'Election Day, come avvenne già nel 2013. Quindi l'accorpamento delle regionali, sappiamo che vanno al voto Lombardia, Lazio, Friuli, Venezia Giulia e Molise. Quindi delle elezioni regionali importanti, e per una questione di risparmio o soprattutto perché, mettendole insieme, le persone spesso si scocciano, è brutto dirlo, di andare a volte, più volte a votare, e quindi lì una volta sola. In realtà una parte degli italiani torneranno a votare comunque in primavera, perché ci sono alcune città importanti che vanno al voto. L'accorpamento sarà deciso molto probabilmente per motivi di carattere, come dicevi appunto tu, finanziare, cioè per risparmiare, però non c'è dubbio che creano non pochi problemi, oppure aiutano, secondo dei punti di vista, perché come sappiamo appunto la rottura a sinistra tra il PD e appunto i Liberi Uguali di Grasso rischia di ripetersi non solo nelle politiche, ma anche alle regionali. E noi sappiamo che tanto la Lombardia che soprattutto il Lazio, dove il centrosinistra governa, il mancato appoggio della sinistra alla maggioranza PD potrebbe precludere insomma una vittoria, un rinnovo di Zingaretti e rendere praticamente impossibile la possibilità per Gori, che è il candidato del PD in Lombardia, di concorrere per scalzare Maroni. Questo un po' è il quadro, però anche il PD insomma non si è messo di traverso rispetto all'Election Day, e quindi sarà Election Day. Sarà Election Day, 4 marzo, ce l'ha confermato Barbara Fiammeri. Pensavo che tu dicessi solo davanti al mio avvocato, ma l'hai detto ormai esplicitamente. Senti, in Commissione Affari Costituzionali così ha informato il esponente del Movimento 5 Stelle, Scagliusi, ha detto: in Commissione Affari Costituzionali è stata approvata all'unanimità dei presenti la risoluzione che chiede al Governo di adottare tutte le iniziative necessarie al fine di assecondare una missione dell'OSCE in occasione delle prossime elezioni in Italia. Ricordiamo che l'OSCE è l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, quindi ci sarà bisogno di osservatori in queste elezioni? Vabbè, devo dire che questa mi pare una mossa abbastanza propagandistica e sottolineo un aspetto. Sì. Cioè, se dovessi mandare l'OSCE, cioè dovessi richiedere la presenza dell'OSCE, lo richiederei per elezioni come quelle regionali, non certo per le politiche, e spiego subito. Perché il problema del voto, come abbiamo visto anche dalle inchieste giudiziarie subito dopo le elezioni siciliane, vertono soprattutto sul cosiddetto voto di scambio. Il voto di scambio c'è soprattutto quando ci sono le preferenze. Nelle politiche le preferenze non ci sono, ci sono invece le regionali. E quindi se dovessi chiedere un intervento terzo, lo chiederei per vigilare appunto sul voto di scambio, che si ha praticamente esclusivamente nel caso delle preferenze. Senti, invece l'altro tema... È una vecchia battaglia questa, sì. La mia, contro le preferenze. È chiaro. Passiamo invece al biotestamento. Dicevamo che domani mattina ci sarà il voto finale, no? In tutto ci sono 8 articoli in questo disegno di legge. L'Aula del Senato ha concluso l'esame dei 3.005 emendamenti, cioè delle richieste di modifica, però sono stati tutti respinti e quindi diciamo che in realtà questa maggioranza trasversale che sostiene questo disegno di legge è passata indenne dai vari voti segreti. Sì, in particolare quello che si è svolto oggi era molto delicato perché riguardava proprio il punto centrale, quello della idratazione ed alimentazione forzata. Questa maggioranza trasversale ha superato, direi, brillantemente l'esame con uno scarto significativo di voti e quindi tutto lascia supporre che domani il biotestamento diventerà legge. Dicevo che sì, hai ricordato appunto la questione relativa all'idratazione e all'alimentazione e poi fra gli altri anche questo articolo che introduce l'istituto delle disposizioni anticipate di trattamento, cioè le DAT, che contengono appunto le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche eccetera. Domani avremo il quadro più chiaro. Sì. Passiamo invece a Berlusconi che... insomma già provocato dicendo oggi durante la presentazione annuale del nuovo libro di Bruno Vespa, ha detto ho letto, ho passato delle ore stanotte mi sembra a leggere i testi dei dittatori, anche Mussolini che però forse non è proprio un dittatore, insomma abbiamo sentito, lui dice poi che è stata una battuta, ma comunque parliamo delle alleanze in vista appunto di queste elezioni che ci saranno il 4 marzo. Per quanto riguarda Salvini, quindi parliamo di centrodestra, Salvini avrebbe detto, anzi ha detto oggi, sospendiamo qualsiasi tavolo incontro con Silvio Berlusconi finché non avremo spiegazioni ufficiali sul voto contrario di Forza Italia all'iter veloce per la legge Molteni che cancella lo sconto di pena per reati gravissimi, quelli per esempio relativi alla violenza sulle donne. Anch'io mi chiedo come mai sia stato affermato questo disegno di legge, però... Focalizziamo un attimo. Sì. Da un lato c'è questo no di Forza Italia e ora brevemente spiegherò il perché, qual è la motivazione che danno a questo disegno di legge. No, che peraltro era stato già espresso alla Camera, lì si erano astenuti i deputati di Forza Italia in nome di un garantismo, diciamo, nei confronti comunque degli imputati. Invece per quanto riguarda la decisione che è avvenuta oggi al Senato, qui si chiedeva la deliberante, ovvero la possibilità di approvare in commissione senza arrivare in aula il provvedimento in via definitiva. Forza Italia si è opposta sostenendo che in questo modo avrebbe, questa è la giustificazione che hanno dato, liberato l'Aula dall'onere di approvare questo provvedimento e quindi, come dire, renderebbe questo più facile al PD portare in aula lo Ius Soli. Insomma, non so se si sono un po' arrampicati sugli specchi, comunque questa è stata la giustificazione che hanno dato. Ma il problema, lo scontro in realtà tra la Lega e Forza Italia, tra Salvini e Berlusconi va ben oltre Lo sappiamo, tema, no? La questione di leadership. Ma oggi, nel senso che oggi Berlusconi, secondo me, ha detto una cosa significativa politicamente, cioè che cosa ha detto? Alla domanda che gli è stata posta da Polito che lo intervistava insieme a Vespa. Posso farti sentire cosa ha detto ancora? Sì, ti anticipo? Sì, vogliamo sentire? Sì. Sentiamo. Sopravvalutate i capricci di Salvini. Lui ha questo modo di cercare di conquistare l'attenzione e il consenso di un numero sempre maggiore, sempre più importante di elettori, e dobbiamo dire che lui è diventato protagonista della Lega al 4% e l'ha portata al 14%, quindi chapeau. Ma, ripeto, Salvini, quando ci si siede a un tavolo, è persona estremamente ragionevole, disposto di fronte a argomenti seri anche a cambiare parere. Quindi, insomma, come a dire, il coltello da parte del manico ce l'ho comunque io, lui fa i capricci, ma poi è ragionevole. Questo volevi dire che aveva detto? No. Dillo tu allora. C'è un altro passaggio, secondo me, significativo, è quando appunto gli chiedono, ma se dopo il voto, dopo le politiche, non si... C'ho anche quello. Vogliamo sentire quello dove parla dei vincitori, eccetera, eccetera, con Gentiloni, sì. Se non ci fosse una maggioranza, lei sarebbe favorevole a votare subito dopo qualche mese? Penso che la soluzione più corretta sarebbe quella di continuare con questo governo e di consentire un'altra campagna elettorale non brevissima alle varie forze politiche che possono permettere a tutti di far conoscere al più grande numero possibile di elettori i loro programmi e la loro posizione. Ecco, questo, ho indovinato questa volta? Sì, è questo che volevi dire. Perfetto, e vorrei sottolineare ai nostri ascoltatori questo inciso non brevissima, secondo me, che è significativo, perché è vero come poi lui, come poi lo stesso Berlusconi farà poco dopo questa intervista in una nota, dirà ma che cosa ho detto, non ho detto una cosa scontata. Che prevede la Costituzione, no? Non, sì, che se non c'è un nuovo governo rimane in carica quello per gli affari ordinari, quello che c'è. In realtà è quel non brevissimo, cioè lui dà un'indicazione specifica, come dire, non è che si torna subito al voto se non c'è una maggioranza, rimane in carica Gentiloni. Sì. Allora, lui parla di 3 mesi, però attenzione perché faccio un piccolo calendario. Votiamo il 4 marzo. Sì. Prima di che comincino le consultazioni per la formazione di questo nuovo governo, si devono riunire le Camere, devono eleggere i presidenti di Camera e Senato, e sappiamo che se non c'è una maggioranza solida non sarà così semplice eleggere i presidenti di Camera e Senato, e già lì capiremo in che modo si forma una eventuale maggioranza parlamentare anche sulle figure del Presidente della Camera e del Presidente del Senato. Inoltre, soltanto appunto dopo arriveremo a Pasqua, perché ci vorranno una ventina di giorni, e arriveremo quindi alla fine di marzo presumibilmente, poi c'è Pasqua, partiranno le consultazioni, e lì ancora una volta, se non c'è una maggioranza chiara, le consultazioni non saranno brevi, probabilmente ci sarà 1 o 2 tentativi di formare un nuovo governo. Se questo non fosse possibile, saremmo già come dire, vicini all'estate, ed è presumibile che non si possa tornare al voto che in autunno. Ancora parecchi mesi in realtà. Cosa peraltro che abbiamo già visto in altri paesi, dalla Germania alla Spagna. Sì, Belgio non ne parliamo poi, ma comunque cioè, non è facile laddove non ci sia una maggioranza chiara solida, poi chiaro, costruirla. Nino scrive, per esempio, sulla pagina Facebook di Effetto Note: evidentemente Berlusconi ha sondaggi che descrivono un risultato elettorale fuori dalle attuali previsioni. Vogliamo mandare anche il passaggio dove parla delle percentuali di Forza Italia e centrodestra? Sentiamo. Io, se posso dire, trovo in giro intorno a me, intorno a noi, un tale sentimento di vicinanza, di simpatia, di rispetto, che sono convinto che con una campagna come quella che ci siamo accinti a fare, Forza Italia arriverà probabilmente a superare il 30%, e non lo dico così non avendo approfondito il tema, l'ho approfondito con una nostra società di indagini. Quindi solo Forza Italia, che poi dice però io sarò insieme a Salvini e alla signora Meloni, come ha detto. Però Giorgetti della Lega, che è vice segretario della Lega, ha detto subito stasera: noi non vogliamo tradire gli elettori, basta saperlo prima, noi mai con Gentiloni. E poi invece Di Maio dei 5 Stelle ha detto: riconosco che oggi Berlusconi è stato sincero, oggi ha messo le mani avanti, ha dichiarato che se non ci sarà maggioranza si andrà avanti ancora con Gentiloni. Lo ha detto, dice Di Maio, perché sa che non avrà la maggioranza, vuole mettersi d'accordo con il PD e tenere Gentiloni e sostenere l'ennesimo governo non eletto. C'è un inciuccio, secondo te? C'è questo accordo sotterraneo? Allora, anche qui inciuccio. Io aborrisco questo termine, ma per un semplice fatto. Se se si è scelto un sistema proporzionale con una parvenza di maggioritario, bisogna raccoalizzarsi se non ci è inevitabile, cioè nei sistemi proporzionali nessuno raggiunge il 51%, quindi è molto difficile poter governare e inevitabilmente si devono fare delle coalizioni. Allora, se il centrodestra al momento, secondo i sondaggi, è la coalizione più forte, riuscirà ad avere un numero sufficiente di deputati e di senatori, farà un governo, ma qualora questo non fosse possibile, inevitabilmente a quella coalizione o a una coalizione diversa, no? Si dovrà raggiungere un'intesa, altrimenti si torna al voto. Cioè, abbiamo visto, la Merkel ha approvato con la maggioranza, no, arcobaleno, non è riuscita, adesso sta tentando di nuovo una grande coalizione con i socialisti di Schulz. Non sappiamo ancora se questa si realizzerà, è ovvio che una volta che tu hai esaurito tutti i tentativi l'unica possibilità è il voto, ma insomma, cioè, i tentativi vanno perseguiti e non per questo deve essere un inciucio, anche perché vorrei sottolineare che non è un discorso retorico quello che sto per fare, cioè della responsabilità, ma insomma oggi, come si è saputo della data delle elezioni, cioè di questo avvicinamento al voto, il nostro spread si è alzato. Allora tutti diranno: ah, questo spread ogni volta viene ritirato fuori. Però purtroppo lì significa che si muovono dei grandi gruppi, dei grandi capitali, e che scommettono o non scommettono su di noi, e noi siamo il paese che in Europa ha il debito più importante, ha il debito pubblico più importante, e quindi se lo spread si alza cosa significa? Significa che il costo del denaro, i nostri mutui in banca per l'acquisto della casa o per le imprese che devono fare investimenti, aumenta il costo del denaro e quindi diventa tutto più difficile. Quindi quando si dice con un po' di faciloneria: ah, va bene, qui c'è l'inciucio, vogliono fare, sì, bisogna allora però prospettare un'alternativa. Se sono gli stessi elettori che questa alternativa non la producono con il loro voto, cioè le forze politiche secondo me sono chiamate a, come dire, ad avere a cercare in tutti i modi di costruire un governo. Se non ci riescono, poi si torna davanti agli elettori, che si spera a quel punto siano un pochino più decisi nell'orientamento. Chiarissimo, dice Luciano. Beh, una volta Berlusconi era convinto che i comunisti erano il pericolo, la minaccia per la democrazia, ora il vero pericolo sono i 5 Stelle. Diceva pure che lui non ha potuto cambiare le cose in questo paese quando era al potere perché non aveva la maggioranza come partito. Beh, secondo me era questo che doveva fare per rimanere al potere. Mentre Lino Tortellino scrive: l'incontro di fine anno tra Berlusconi e Vespa è come Natale in casa Cupiello, con Salvini nella parte del figlio capriccioso, con tutto rispetto per De Filippo. E poi chiudo dicendo che appunto ieri abbiamo parlato della scissione, della separazione consensuale di Alternativa Popolare, chi va verso il PD, chi va verso le braccia di Berlusconi, chi accoglie a braccia aperte Lupi, perché ha detto oggi: Lupi nel centrodestra mi fa piacere, soprattutto è persona per bene, gentile e ragionevole, ma dovrà spiegare a se stesso e agli altri perché ha deciso di sostenere un governo di centrosinistra. Il ritorno al centrodestra è un ritorno al suo posto, quindi su questo non ci piove. Sì, anche questo divorzio consensuale di Alternativa Popolare mi fa sorridere, perché chissà che non li ritroveremo di nuovo insieme i divorzisti separati, insomma. Che vanno con Berlusconi, ma poi Berlusconi con PD deve fare il governo e quindi rieccoli tutti insieme. Ma vediamo, intanto questa è Fantapolitica, spederemo il 4 marzo, intanto ci sentiremo sempre con la nostra Barbara Fiammeri. Ciao Barbara. Grazie, arrivederci. Buona serata. I vostri messaggi al 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Vedo molti su Ryanair. Gianni da Bologna: vi meravigliate di Ryanair? Di cosa? Quando un'azienda lavora sotto costo, finalmente falliranno, come giusto che sia. Poi invece altri messaggi. Simone: la posizione di Ryanair è orribile, ma la sindacalizzazione dei rapporti in Italia non ha pari nel mondo. Alberto: a tutti piace volare con 20 euro, per far questo purtroppo bisogna tagliare da qualche parte, per cui se vogliamo salvaguardare diritti come ferie, retribuzione, stipendio, allora non si può vendere un biglietto aereo a 20 euro ma a 100. Antonio invece scrive: la cuccagna tutta del bel paese di Alitalia è finita, se la CGL pensa di far fallire Ryanair come ha fatto con la nostra compagnia di bandiera, la vedo dura. Poi ne parleremo, però governo e istituzioni si sono dette tutte contro Ryanair, ne parliamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete ormai che siete al posto giusto, nel momento giusto, se volete anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Siamo insieme come tutte le sere dalle 21 e fino alle 22, ancora diverse cose da raccontarvi, i vostri messaggi continuate a mandarli sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, e i messaggi WhatsApp al 349-238-6666. Ringrazio Tani Damassa per il suo messaggio, anche Alessandra, il messaggio spiritoso. Poi Pierluigi scrive ancora sulla politica: cara, mi sembra chiaro, elezioni nella spazzatura, ne abbiamo appena parlato di politica, continua, dice il governo Gentiloni, nuova campagna elettorale che durerà mesi, forse ci daranno un governo eletto come da 9 anni a questa parte, me ne andrò il fine settimana delle elezioni in qualche città del nord Europa. Però Pierluigi, se poi non voti, è chiaro, capisco che uno possa essere disamorato, disaffezionato, scorato, però se vai da un'altra parte, qualcuno deciderà per te. Comunque adesso cambieremo argomento, vi ricordo quali sono i fatti principali della giornata. Ryanair, la compagnia low cost, minaccia i piloti, ci saranno sanzioni se aderite allo sciopero, un atto indegno, dice il ministro Calenda, e per il garante, che sarà Effetto Notte, contro la Costituzione. Economia italiana, migliorano le previsioni di Confindustria, ma il voto rappresenta un bivio, dice Confindustria. Il vertice straordinario di Istanbul, i paesi musulmani chiedono che Gerusalemme Est sia capitale della Palestina. Il disegno di legge sul biotestamento, regge la maggioranza trasversale ai voti segreti, domani il voto finale. Berlusconi sulle elezioni, ne abbiamo parlato, se nessuno vince avanti con Gentiloni, ha detto, e sullo strappo di Salvini dice solo capricci. Ciclismo, Froome positivo all'antidoping. E fra le notizie principali di oggi, come avete sentito, rispunta il caso Ryanair, la compagnia aerea low cost che, sapete, da qualche tempo nell'occhio del ciclone. Ricordate negli ultimi mesi centinaia di migliaia di voli che sono stati cancellati dalla compagnia irlandese per smaltire le ferie dei piloti, ma diciamo anche di piloti che se ne andavano in altre compagnie, con ovviamente tutto questo gravi disagi per gli utenti. Dietro a questa vicenda complicata, che suscita dei dubbi anche sulla reale strategia che sta seguendo la compagnia low cost più famosa d'Europa, c'è fra le altre cose anche, appunto, dicevo, la fuga dei piloti. Solo nell'ultimo anno pensate che sarebbero 700 quelli che hanno lasciato Ryanair, a cui si devono aggiungere 150 colleghi che si sono dimessi tra la primavera e l'estate scorse per trasferirsi ad altre compagnie. Perché tra le cause sembra che ci sia appunto una bassa retribuzione e ci sarebbe anche quella di turni di lavoro piuttosto massacranti. In seguito a tutto ciò, i piloti hanno annunciato uno sciopero, i piloti italiani, per il prossimo 15 dicembre. Ma cosa è successo quindi? Qual è il nuovo capitolo a questo punto? È che Ryanair avrebbe inviato una lettera ai piloti italiani, ai dipendenti di bordo italiani, minacciandoli di sanzioni, quindi niente promozioni, niente aumenti di stipendio in caso di adesione allo sciopero. Quindi in questa lettera Ryanair dice: guardate che se aderite allo sciopero il 15 dicembre sono previste delle sanzioni. Allora subito è arrivata la reazione dura del ministro dello sviluppo economico Calenda, che ha detto è un atto indegno e sostiene che si dovrebbe intervenire. Ha detto Calenda: non si può stare su un mercato, prendere i vantaggi e non rispettare le regole. E a proposito di regole, saluto subito il presidente dell'autorità di garanzia per gli scioperi, che è Giuseppe Santoro Passarelli. Buonasera. Buonasera. Buonasera Santoro Passarelli. Allora, a sua volta lei ha criticato duramente, no, questo atteggiamento di Ryanair. Certo, certo, perché è inconcepibile che nel nostro ordinamento, che riconosce lo sciopero, come tutti sanno, come diritto costituzionale, si possa pensare di intimidire, se non minacciare, intimidire i dipendenti che proclamano uno sciopero, oltretutto seguendo le regole, quindi dal punto di vista della procedura che è prevista dalla legge 146 è stata rispettata. Quindi lo sciopero proclamato è assolutamente legittimo. E le intimidazioni, se si fermano alle intimidazioni, ma poi se seguono sanzioni, evidentemente o interverrà il giudice, ma per quanto riguarda noi possiamo intervenire anche ai sensi di una norma specifica. Ora non le sto a dire proprio la norma, perché sarebbe l'articolo 13 lettera H, che ci consente di aprire un procedimento nei confronti delle compagnie che con il loro comportamento aggravano il conflitto, perché certo minacciare persone che proclamano lo sciopero e che lo attuano significa aggravare il conflitto che già esiste e quindi noi come Commissione siamo legittimati a intervenire, ad aprire un procedimento, però allo Stato ancora è prematuro fare questo discorso, vediamo come evolve la situazione e da poi sarà nostra cura seguire, monitorare con molta attenzione questa cosa, perché questa situazione, perché è incredibile che un datore di lavoro in Italia, pensiamo, possa arrivare a un comportamento del genere. Loro stanno in Irlanda e pensano di potersi comportare così, ma loro sono soggetti anche alle leggi italiane quando operano ovviamente in Italia. Chiaro, fra l'altro, dottor Santoro Passarelli, va anche detto che lo sciopero è stato proclamato anche in Germania, in Irlanda, in Portogallo, soprattutto perché al centro della protesta, fra le altre cose, c'è il riconoscimento stesso della rappresentanza dei lavoratori, quindi dei sindacati, di un corpo sindacale. In Germania c'è un sindacato molto potente che si oppone e pretende, giustamente, a mio avviso ovviamente, giustamente l'applicazione del contratto collettivo anche per i dipendenti della Ryanair. Però ecco, per noi a questo punto è importante seguire questa vicenda, perché non può passare sotto silenzio questo comportamento, come del resto diceva giustamente, ma questo riguarda la politica, uno non può prendere i vantaggi e non sopportare i costi poi di un servizio pubblico essenziale, perché loro non sono un'azienda privata ma svolgono un servizio pubblico essenziale in Italia che è soggetto alle regole della legge 146. Chiaro. Giuseppe Santoro Passarelli, io la ringrazio e quindi stiamo a vedere, come diceva, come evolve questa situazione. Speriamo che si arrivi a un accordo. Grazie intanto. Siamo sul pezzo. Arrivederci. Non ho dubbi, buon lavoro, grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Tante ve ne ho raccontate, ancora c'è da raccontare, siamo al rush finale, abbiamo parlato di molti fatti, vi ricordo adesso i principali e vi ricordo che per i vostri messaggi, le vostre opinioni, pagina Facebook di Effetto Notte o il numero per SMS e WhatsApp che è il 349-238-6666. Quindi ecco, a questo ascoltatore in realtà abbiamo risposto, perché diceva bene lo sciopero di Ryanair, ma qual è il motivo della protesta? Appunto la mancanza di rappresentanza sindacale, gli orari di lavoro, retribuzioni basse, eccetera. Avete sentito un po' di questo sciamare di piloti verso altre compagnie. Insomma, vedremo poi come finirà questa vicenda. Gli altri fatti, la politica che Salvini rompe sulla giustizia con Berlusconi. Berlusconi però alla presentazione del libro di Vespa dice solo capricci, quelli di Salvini poi alla fine è ragionevole, apre a Gentiloni, dice nel caso non si raggiungesse dopo il voto, che sarà il 4 marzo, la maggioranza. Pare che tutti siano un po' d'accordo sull'election day, il governo ci pensa, intanto va avanti l'iter del biotestamento, domani dovrebbe esserci il voto finale. Poi sfida dei paesi islamici sulla questione di Gerusalemme Est, ne parleremo tra pochissimo. Zonin in commissione, l'ex presidente della Popolare di Vicenza, ha detto mai ordini da Banca Italia e dice in realtà la sua audizione viene secretata dopo un'ora. La Corte dei Conti punta l'indice su Tesoro per i derivati. Il tribunale contro l'INPS, questa è una notizia che vedo adesso, bonus mamme a tutti. A tutti, dice, il premio nascita di 800 euro una tantum va concesso a tutte le madri, anche quelle straniere che l'INPS aveva escluso. E poi schiaffo a Trump in Alabama, vince il candidato democratico. Emiliano sulla TAP, iniziata da ieri la polemica con il gasdotto dove c'è stata l'esplosione in Austria, dice la TAP in Puglia come Auschwitz, poi si scusa. Continua, come prevedibile, a creare molta tensione internazionale il caso di Gerusalemme, no? Con la decisione di Trump nei giorni scorsi di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e quindi spostare lì l'ambasciata americana. Oggi c'è stato un vertice straordinario a Istanbul dei paesi musulmani che hanno chiesto in questa dichiarazione finale, l'Organizzazione della Cooperazione Islamica ha chiesto di riconoscere Gerusalemme Est capitale dello Stato di Palestina occupato, ha chiesto a tutti gli altri paesi del mondo di fare lo stesso. Era una posizione questa sollecitata dal presidente turco Erdogan e che oggi diciamo, e saluto Marco Barbonaglia da Istanbul, ciao Marco. Buonasera Roberta. Diciamo che in questo, con questo vertice, questo caso delicatissimo di Gerusalemme, Erdogan ha avuto l'occasione di ritornare praticamente protagonista, no? In un momento in cui manca un po' una leadership nei paesi arabi e in quell'area del Medio Oriente. Certo, Erdogan non ha perso tempo, ha colto immediatamente la palla al balzo e ha tentato, direi in questo caso con discreto successo, di riempire un vuoto, che è il vuoto della leadership araba, che è in grande difficoltà. E Erdogan ha immediatamente, appena Trump ha dichiarato la sua intenzione di spostare l'ambasciata a Gerusalemme. E gli imprevisti questi del mestiere, della diretta. Adesso vediamo di raggiungerlo nuovamente, il nostro Marco Barbonaglia a Istanbul. Ci stava spiegando che appunto il presidente turco Erdogan, che aveva subito, come possiamo dire, diversi schiaffi o fallimenti in Siria e poi contro i curdi, questa volta trova l'occasione, proprio perché i paesi musulmani si sono trovati impreparati a gestire questa vicenda di Gerusalemme, torna, vi dicevo, all'occasione di tornare protagonista. Marco, ci sei? Marco Barbonaglia? Sì, eccomi, ci sono. Eccoci. Di nuovo. Teniamo duro con la linea, prego. Quindi dicevamo che Erdogan ha subito colto al volo l'occasione di riempire questo vuoto che si è creato, ha immediatamente attaccato a testa bassa, e anche oggi Erdogan si è mosso in due direzioni. Una, quella di chiedere il riconoscimento di Gerusalemme occupata, l'ha definita, come di fatto anche è, insomma, dal punto di vista dei palestinesi, come capitale della Palestina, e ha invitato tutti gli stati che difendono il diritto internazionale a farlo. D'altra parte poi ha rivolto delle parole estremamente dure allo Stato ebraico, che ha definito terrorista, ha detto che è uno Stato che uccide e imprigiona i bambini, e nel dire questo ha mostrato una foto che in questi giorni è diventata virale, che è la foto di questo ragazzino palestinese bendato, circondato dai soldati israeliani. Quindi una parte era, diciamo, più pragmatica, quella di portare tutti sulla sua posizione. Non era neanche così difficile, diciamo, di riconoscere Gerusalemme Est, come poi è stato fatto, come capitale della Palestina. L'altro è l'attacco che lui muove a Israele, con i quali non dimentichiamo che con Israele la Turchia ha un rapporto, innanzitutto un rapporto che è stato per 50 anni molto forte e molto buono, di lunga data, quindi. È un rapporto che è stato ricucito dopo 6 anni di interruzione dei rapporti diplomatici da un anno, che però adesso in qualche modo vedremo. Prenderà un'altra piega, no? Dopo queste dichiarazioni, e diciamo la figura di leader in questi movimenti dei paesi musulmani, no? Cioè, se è Erdogan paladino della causa palestinese a questo punto, Erdogan. Marco Barbonaglia, allora ci sentiamo semmai nei prossimi giorni, perché appunto sicuramente non si ferma qui questa tensione internazionale e le reazioni dei paesi musulmani. Grazie intanto, Marco, da Istanbul. Grazie a voi. Ciao Marco, intanto vedo che prosegue la partita di Coppa Italia, Milan-Verona, per il momento conduce il Milan 2-0, ecco, per aggiornare anche chi fosse interessato al calcio in questo momento, Coppa Italia. Ci risentiamo alle 22 per le notizie principali, ve le ricordo a tra poco.